costruzioni, ma non è che guardate. Infatti l'hanno alimentato un pochettino, perché 440 invece ne ha, aspetta quanto ne ha di memoria, pare ne abbia 100 se non sbaglio. No, non te lo so dire, è quello, per quello non te lo so dire, sì, perché io, guarda, nel 80 ho le istruzioni, tutte con lo schema elettrico, su tutto ciò, nel 80. Quindi dal 140 c'ho solo istruzioni, ma non c'ho lo schema elettrico. Ok, dai, se Fabrizio c'è ancora, lo facciamo riprendere, io rimango qualche minuto e poi vado via. Sì, riprende anche io, vi saluto, che passo in QRP, che vado, faccio due cose e poi vado a Nina. Ciao a tutti, buonanotte, alle prossime. Ciao Fabri, ben sentito, dai. Buon riposo e buon lavoro per domani se devi andarci. Ok, vai Franco. Ciao Fabrizio, ben ascoltato dopo tanto. Non a queste greche, oppure a buon 144, ce la ascoltiamo per il prossimino. Infatti ti volevo chiamare anche per salutarti. Ci sentiamo, ciao Fabrizio. Ciao, buonanotte a tutti. Ok, vediamo se nel frattempo Riccardino è rientrato. Lo mangia velocissimo per arrivare qua pronto a modulare. C'ha una passione e un entusiasmo questo ragazzino unico. E speriamo che gli rimanga. No, il problema lo sai cos'è, che qua adesso tra un po' scomparirà un sacco di gente, con la bella stagione, quelli che erano col coronavirus, tutti quanti rientreranno a fare altre cose, poi ci rischio magari che si disinappassioni, vabbè non mi viene la parola, perché poi magari rimarrà pochissima gente, quando c'è lui non c'è nessuno e poi piano piano uno perde un po' la forza. Speriamo che ci sia sempre qualcuno a fargli un po' di questione delle compagnie. Sì, penso di sì. Ehi, vai fra. Ehi, capo. Speriamo che gli mantenga quella passione, gli mantenga bene. Diciamo che è un po' di giorni che non c'è nessuno in radio, tutti i giorni, come era quel periodo il mese scorso, diciamo che c'era più gente. Lo facevano il tempo a pranzare che erano subito alla radio, ma invece adesso non c'è più niente. Perché stasera stavo ascoltando, ma non c'era nessuno. Infatti io quando vedo così lo smettere a zero, giro e mi avvio. Che poi ieri notte sono rientrato anch'io, poi dice invece c'era gente dopo, vabbè io ho acceso un attimino, non c'è nessuno e sono andato a nanna. Diciamo che vabbè, quando uno deve andare a lavorare è una cosa, è diverso perché uno quando si deve alzare presto per andare a lavorare deve attingere tutta la giornata, non è che può stare lì ore e ore e ore la notte e poi l'indomani a dormire. Naturalmente, ci mancherebbe. Tu di cosa ti occupi di fra? Guarda, io mi occupavo prima, ero all'INI a Porto Torres e da 2 anni in questa parte sono un dipendente INPS. All'INI stai dicendo? INI, petrolchimico. Ah, ho capito l'Alenia, infatti ho toccato che c'è l'Alenia qua in Sardegna, non lo sapevo. Ah no, scusa, hai capito male, forse mi sono spiegato male io. No, al petrolchimico dell'Eni, Eni di Porto Torres. Che hai, in particolare cosa facevi, che reparto è? Io ero al reparto gomme, facevo carico-scarico merci. Ma è ancora attivo, operativo quello stabilimento? Certamente. Ma hanno ridotto il personale allora? Ma diciamo che il personale è sempre lo stesso, perché hanno fatto, uscendo noi, gli anziani, sono entrati dei ragazzi nuovi. Il personale è più o meno sempre lo stesso. Ah, ma quindi tu sei pensionato? Cappa, ti ho detto poco fa che sono diventato... Da lì sono diventato dipendente INPS. Sì, ma io INPS stavo pensando a questa integrazione. No. Sì, per carità. Non c'era bisogno di andare in cassa integrazione. C'è il lavoro io già lì. Cioè. Niente, sono andato in pensione. No, lo so, era un bel impianto nel senso, come produzione sapevo che funzionava egregiamente, era anche apprezzato come qualità del prodotto. Cappa, è l'unico prodotto confusione che c'è in Italia, cioè non solo in Italia, in tutto il mondo, diciamo. L'NBR è la più pregiata da fare non solo in Sardegna. Avevante. Che? Dici Black e non entra. Radio, una bomba di radio, complimenti, bellissima, come piace a me. C'è anche l'amico Franco da Sorso, te lo rilancio, avanti Franco. Cappa, io lo ascolto, lo capisco come sta parlando, ma non c'è segnale, vero, diciamo da 4-5 che arrivava prima, adesso è zero di segnale. E diciamo che la radio si è abbassata parecchio, mi arrivi un segnale, una radio di 1, mi arrivi, comprensibile, ma non al 100%, ma però ti ascolto. L'hai ascoltato Claudio? No, qua grazie a Dio ti ascolto perfettamente, sei oltre 9, la radio pulita, chiara e perfetta, 5 pieno. No, da parte mia no, è inutile, c'è anche se arrivi 9.10, 9.40 o 9.60, quando c'è la perfezione non serve a niente. Poi magari quelli che sono più lontano desidererebbero avere qualche dB di segnale in più, però diciamo, anche tu devi controllare la bolletta elettrica. Adesso ci sono degli aumenti, sentito stasera alla radio, hanno aumentato, diminuito del 18% in questi mesi del coronavirus, 2 mesi, e riaumenta del 33% la luce, assurdo, cazzo. Cazzo, sì, Claudio, mi sembra che ti chiami, sì, se non mi ricordo bene, diciamo che l'Enel, quello che ha perso prima, vuole recuperare adesso, vuole recuperare, e purtroppo la vita è questa. Siamo in Italia e basta, avanti Claudio. No, ma ci sono spese assurde, sentiamo in merito, guai, mi arrabbio soltanto. Noi abbiamo 2 contattori, 2 utenze in una campagna, diciamo, in un terreno che ci manchiamo da marzo, non c'è nessuna attività, tutto bloccato da marzo. Sono arrivata una bolletta di 134 euro e una di 96 euro, perché una è la 380 e l'altra la 220, trasporto, energia, accise, eccetera eccetera, consumo zero, tutto il resto erano spese e accessorie, ridicolo. Cioè, trasporto di cosa? Se non c'è consumo, cosa trasporti? Oneri di sistema, che è un'altra cosa ridicola. Vabbè, ci siete accorti? C'è tu e Franco, c'era Fabrizio per un attimino, però è andato via a dormire, anche io sto per andare da un momento all'altro, e poi stiamo aspettando l'ingresso importante di Riccardino. Vediamo, lo richiamiamo, se sta mangiando troppo lo lasciamo mangiare, se no vediamo se rientra. Ci sei Riccardo? Riccardino sta ancora mangiando, vai tu Franco. Ecco, adesso vi ascolto meglio perché mi ho messo le cuffie professionali, prima ci avevo le cuffie le cuffie quelle del telefonino. No, adesso mi ascolto molto meglio, molto più chiaro e più consistente. Sì, guarda Claudio, ti dico che per arrivare senza potenza, senza niente, liscio, mi arrivi bene a Sorso, arrivi benissimo, come radio, segnale zero. No, io ti ho detto come l'altra volta, adesso hai trovato l'abbinamento giusto, c'è la radio ideale, il microfono ideale, non toccare niente, come dice Claudio, no toques, mettici un po' di attack, boostic o qualunque cosa che tenga bloccato tutte le regolazioni effettuate. Se andiamo alla grande, non c'è niente da eccepire, perfetta la radio, segnale ottimo, da parte mia, top. Capo, è importante con l'attacco lineare che non saturi, in effetti, però diciamo che esca una bella radio, anche una bella radio, e tutto qua. Comunque, se stai usando il 48, guarda, complimenti, perché sta uscendo veramente bene. Vabbè, a parte adesso che non c'è QRM, non c'è propagazione, non c'è niente, però diciamo, se arriva la propagazione non ti ascolterai più. Però adesso è tutto a zero, io ci occorremmo a zero, ti ascolto meravigliosamente, diciamo, perché basso, però ti ascolto, riesco a capire le parole al 100%, riesco a capire. Ok, avanti a te. No, vabbè, poi parlando di radio, anche quella di Franco è spettacolare, bella, chiara, pulita. Ci avete più o meno lo stesso segnale, tu Claudio un peluzzino un pochettino, ma proprio impercettibile, un po' più di 9 di lui, lui è 9 pieno, ma siete uguali sia di segnale, che la radio è bellissima, perfetta, come piacciono a me, non c'è rumore di fondo, chiara, corposa, tutte le tonalità e va più che bene. Ed è un piacere ascoltare radio che non devi affaticarti, non sono radio faticose da ascoltare, perché troppe volte qua ascoltiamo dei rimbombi, rumori di fondo, alternate, amplificazioni, ecco, riverberi, eccetera, eccetera, e devi faticare per ascoltare. Così se ti devi fare una bella conversazione non devi stare ogni volta a dire cosa hai detto, non ho capito, ma di cosa stai dicendo? E così è più piacevole. Già siamo abbastanza lontani, dai. Cioè, dobbiamo, non bisogna pretendere troppo da queste radio, dai, cavolo, con un antennino da muro su una piazzetta in basso, coperto dalla colonna, come si chiama, dalla collina del Mascari, per cui sarà molto improbabile farsi sentire. Ok, signori, io però vi devo lasciare adesso che sono un po' stanchino. Saluto a te Claudio, a tuo babbo se mi sta ascoltando, a Franco, sempre un piacere ascoltarvi tutti e due, e eventuali amici qua su canale 10 in ascolto. Salutatemi a Riccardino quando rientra, purtroppo io sono un po' stanchino, dai. Vi lascio in compagnia di voi due, rimettetevi se avete piacere, continuate la conversazione, cuoretti da parte mia. Ehi capo, dai, anche per me è sempre un piacere parlare con voi. Io mi piacerebbe, come ho detto poco fa a Fabrizio, che lo volevo aggiustare questo qua, perché lo voglio tenere e parlare sempre con questo, perché una radio riesce abbastanza bene, non ho un problemi, ed è, come si può spiegare, a me uscire con un'altra radio e poi dirmi quello che hai detto tu poco fa, mi ascolti o non mi ascolti, non mi va. Mi va che tutti mi ascoltano e quando non mi dicono niente vuol dire che sto uscendo abbastanza bene. Avanti a te Roberto e poi ciao, ben ascoltato, buon 144. Ok, Roberto ha chiuso e ce ne ascoltiamo le prossime mille. Avanti Claudio. No, Riccardino sicuramente sta mangiando e magari vuole entrare più tardi, però noi non ci abbiamo tutto questo tempo. K, sto usando un K680 con l'MC60 e vabbè, quelle non le possiamo usare noi. Diciamo che l'unica radio per usare noi è la, diciamo, 140, 430 e 680, tanto per migliorare bene noi come CB. Poi del resto sì, anche gli altri sono belle radio, tutto quanto, però diciamo che no, io non gli spendo tutti quei soldi per solo per parlare nella CB. Avanti a te. Ehi K, sì, avendo la patente è tutta un'altra storia, Ascolta, Claudio, se mi dai un secondo voglio agganciare il mitico 1048. Ciao Claudio, buonasera, sono rientrato. Ok, chi sei rimasto? Roberto è andato via? Quanto ho capito c'è anche Franco. K, se te lo posso chiedere, ho sentito che hai preso una bella radio, mi piace molto, cosa stai usando adesso? Il Sommercamp? Sì, confermo, Franco, hai un bel disturbo. No, già ce l'ha un bel disturbo proprio alla radio. Ok, anche adesso ce l'ho un disturbo. No, qua è forte. No, fra, io sto andando benissimo, non ha nessun problema. Aspetta, devi un attimo scusare a Claudio, un attimo. Guarda Riccardo, adesso andiamo il 747 a vedere cosa fa. Mi sono accorto che sta andando male. Aspetta, no. Voglio vedere un'altra cosa, voglio vedere. Sì, sempre, mi va male lo stesso. Ok, riprendo con l'altra radio. Ehi, a Franco, a quanto ho capito vuoi usare il 747 alla Iaesu, quello, se è quello, mi piace molto. Aspetta, sì, no, alla Iaesu, alla 48, lo stavo usando. Però probabilmente c'è qualche problema, sì, ho capito cos'è, una perdita, però lo riprendo più tardi. Domani me ne faccio gli attacchi di nuovo, che faccio. Dai, faccio venire avanti di nuovo a Claudio. Comunque, tu Franco lo senti basso? Franco, stai sistemando oppure non l'hai sentito a Claudio? No, stavo sistemando, un attimino, eh. Va bene, gatta, fai. Cappa Claudio, scusa, poco fa, probabilmente ho fatto qualche cazzata nei collegamenti. Oppure nei cavi che tirano su un altro tipo di... su una ciabatta e mi pare i disturbi, dai, se no mi dovrebbe uscire bene. Avanti a te Claudio. Ehi, da questo QTH, questa antenna sta sempre uscendo da tutte e due, vabbè, forse perché siamo vicini, non lo so. E sta uscendo sempre bene in tutti e due i modi, vabbè, tranne per quel piccolo disturbino del 48. Kappa, sì, solo per quello. Diciamo che ho avuto un problemino lì, che ho capito cosa mi è successo. Va bene, dai, staccherò qualcosa, metterò, perché c'è anche un accordatore attaccato, c'è tutto quanto, ma non lo sto usando come rosmetro, però probabilmente non ci vuole. Va bene, dai, lo staccherò e metterò tutto diretto, metterò. Sì, guarda, tu dovrei arrivare benissimo a te perché tu sei a Sassari, mentre Claudio è un po' fuori mano, ti dovrei arrivare un po' meno. Vabbè, in confronto non è che ci ascoltiamo male, non ci ascoltiamo male. Avanti Riccardo. Vabbè, lo so, anche io un po' sono distante dalla città, sono praticamente più o meno come Claudio, lui vabbè, sarà più distante, deve fare anche tutte le gallerie e niente. Comunque qua sei Santiago 910. Guarda, diciamo, vabbè, sto usando non poco, guarda, meglio me ne ero neanche accorto. Sto usando 50, quasi 60, no. 70, quasi 80 watt sto usando. Va bene. È per quello che mi ascolti bene, Riccardo. Non me ne ero neanche accorto, guarda che stavo uscendo questa radio con questa potenza, perché io questo qua quando scalda parte da zero, poi aumenta piano piano. Avanti Claudio! Ho capito. Niente. Non ho capito, scusa se te lo richiedo, ma per adesso stavi usando il Sommer tanto. Sì, sono belli apparati, solo che tenerli tante non capisco il motivo, non capisco. Intanto ne usi solo una, ne usi. Sì, però sono belle radio, ne ho visto tante vintage belle, della Sommer, Capri, Midland, di tutti i tipi. Ma però diciamo che uno deve essere molto molto appassionato per averle. Però basta una radio che esca bene, guarda, anzi una è poco, due che escano bene e vanno tutto bene perché una di riserva ci vuole sempre. Riccardino, e tu con quale radio stai uscendo adesso? Sto uscendo con un Midland adesso, con un pochino di watt e niente, il Midland Alan 43. Con il microfono? Che cosa non ho capito qua? Praticamente, ti spiego, c'è una lunga storia che è stato modificato che è per la 43 MHz ed è stato modificato, capito? Capito? Kappa, no, volevo chiedere a Riccardo che microfono sta usando su quella... con Midland? È che non potevo dirlo, sto usando K430 con MC80. Ah, ecco, io ho capito poco fa, un Midland, tipo, non un 48, ma un Midland, ho capito. Adesso ho capito cosa stai usando, perché è bello, diciamo che lì ci vorrebbe più 60, Perché non posso dire a tutti che sto usando questa, capito? Niente. No, il Midland alla 43 esiste veramente, solo che lo usano i tassisti sulla 43 MHz ed è un pochino moderno, una cosa così. Riccardo, prova a usare un 60 lì. Franco, sì, lo so che bisogna attaccare, su quello bisogna attaccare un 60. Devo prendermelo uno di quelli. Un 60 e niente, ho sentito Tonino Cavatappi. Cavatappi, questo è nuovo. Va bene, dai. Dai, guarda, io sto usando un 60 qua, sto usando. Una bomba. Sul cavo è una bomba. Tonino! Non cavo i tappi, dai, non bevo neanche. Avanti, Claudio. No, negativo. È una battuta che ha fatto Riccardo. Riccardo? Sì, stavo ascoltando chi era, stavo guardando il segnale, ma non può essere Tonino o se sta usando qualcos'altro, perché di solito a questo QTH arriva 9.50 attaccato, invece staccato arriva 9.30. Boh, che lo stia usando qualcos'altro. Guarda, Tonino a me mi arriva 9.10, mi arriva. E se sarebbe entrato l'avrei visto, l'avrei sentito. Tonino è una bomba in oca, abita qua vicino a me. Ehi, no, stavo guardando perché la voce ricorda la sua. È vicino a casa, infatti è vicino a casa, ce l'ho più o meno davanti. E da lì dovrebbe sparare che non stia usando qualcos'altro, perché la voce ricorda tanto la sua, che non sia qualcun altro allora. Infatti, dai, dovrebbe essere qualcun altro. Non è lui comunque, Riccardi, non è lui, perché sennò a me mi sarebbe arrivato a bomba. Perché qua lui è qua a San Camillo, ed è vicino a me. Buonasera, signorilli. E lui si riesce. Non ti potevo neanche contro, ma contro un latte vuol dire. Buonasera a tutti. Ciao, bello. Grazie per il bello, ma sapere, ma femmino ce l'avrei ingradito molto più volentieri. Ciao Riccardino. Ciao Tonino, mi ero accorto che eri tu. E dove? O sei entrato adesso, che stavi facendo prova, vieni prova. Ero sul 4, stavo provando le cuffie, tutto qua. Perché mi sentivi? Positivo, già ti sentivo forte e chiaro. Addirittura, ed ero liscio, lungo. Siamo attaccati, bisogna andare a San Camillo e abbiamo già vicino. A San Camillo sono tutti macchine, lo sai. Non tutti, Tony. Beh, sono io giustamente che non sono comacco. Perché è buono tu. Io non sono comacco, ma no, io faccio macchia all'acqua. quello è il problema. Ok, dai, ciao Tonino, che bello ascoltato. Compagnia di Claudio Coltiano Arrugginito ed è questo ragazzino qua. Scappa, salutoni, chiudo Arrugginito. Sono tutti quanti voi anche eventuali ascoltoni. Riccardino, vi già abbiamo salutato. Visto cosa vuol dire linea retta molto vicini, Riccardino. Già lo so, infatti vabbè che anche Franco è vicino, è per quello, infatti quello ho detto che non sentiva niente, perché noi io e Franco siamo vicini a te, per questo. Ed eri liscio, se attaccavi ti sentivo in tutti i canali, da 1 a 40. E addirittura dai, ma Franco, ma disturbavo anche a te? No, negativo, io sbatte non le avevo, ma ce l'aveva Riccardino, ma con quella radio c'hai gli sblatter con Riccardino. Sì, lo sentivo a lui, vabbè non era perfetto come se era in questo canale, però lo ascoltavo bene che stava facendo 1, 2, 3, prova. Ora sì, prova, sta, 1, 2, 3. Avevo intenzione di mettere un kilowatt sotto, mamma mia. Ma se non hai. Me lo non ce l'hai. Ho intenzione, ascolta bene le mie parole, ho intenzione di mettermi un kilowatt. Bello, beh, mica salta la corrente, non ha più corrente di tutto San Camillo. No, che ci metto il gruppo elettrogeno, per il sicuro 6 kilowatt. E Cardì, lui è collegato all'ospedale. No, che puoi sciupare a chi non fa. Oh, yeah. Va bene, dai, riprendi Claudio. Ok, grazie Claudio. Comunque l'importante è sentire la radio che sia ottima, tutto qua, segnale relativo. Giusto Claudio, l'importante è la radio, è tutto merito del microfono, dai. Franco, è a te? Sì, la radio è sempre buona. Tu qua devo bastare quando tu parli, io devo bastare, confronto agli altri, perché non lo aggiungo peso sul microfono, non lo aggiungo peso se chi si sta girando io. No. Questo è il signor Tarne più 3B da tavolo grigio. Bello, ce l'ho anche io quello, ce l'ho anche io. Lo sto aggiustando però, che qualcosa è partito. Franco! Eia. Bello quello, ne ho 4 di Tarner più 3. Davvero? Cos'è? Tu stai premulendo, ti stai, e stai cominciando a comprare. Aspetta un secondo. Ma Fra, hai detto poco fa, c'era il microfono che ti ho dato io, e che microfono mi hai dato tu a me? Stavo scherzando. Ah, è perché mi giungeva strano. Io ripeto il cardino. Ehi, stavo dicendo a Franco, di quelli ne ho 4, sono belli, ne ho ancora 3 da collegare alle radio, ne sto usando solo uno, ce l'ho qui davanti. E poi vabbè, ho altre diversi Turner, altri tipi. Tieniteli conto, perché poi più avanti non ne troverai più di quella roba. Tieniteli conto quelli. Capito? Tony, stavo scherzando, dai, non te la prendo. No, tranquillo, no, ma fai così poco. Sì, confermo che Riccardino ne è 4, al 100%, uguale al mio. Sono tutti in fila a 3. Avanti Claudio. K, io l'ho sempre apprezzato, il Tardeno ce n'è. Forse era anche lo Shure che riusciva molto precompresso, come microfono non mi è mai piaciuto. Il Tarn invece mi dava la voce più chiara, più simile alla mia, tutto qua. E questo anche negli anni 80, che in cui avevo lo stesso apparato, lo stesso microfono, uscivo come adesso, le più da me lo avevano confermato amici e amici, CB sempre. Avanti Riccardi. Ehi, da quanto ho capito anche Claudio deve avere una bella collezione di Turner. E comunque a Franco già me li tengo stretti, che lo so che non se ne trovano. Già ho fatto un affare prendendone 4 in blocco. No, io Riccardi non ne ho collezione di microfoni. Non so quello che mi sono comprato, le mie più 5 e questo, basta. Io vorrei fare una bella collezione di donne, ma non ci riesco. No, aspetta, forse ho sbagliato nome, stavo dicendo, scusa, a Claudio che ha una bella collezione di microfoni a quanto ha detto di tutta la roba che ha del padre. Cappa, bene, bene. E vabbè, sì, ho capito anch'io che infatti K2 è pieno di baracchini. Vabbè, no, io mi basta quello che ho, dai, ne ho uno in riparazione, dovrebbe entrare tra poco, e così ce l'ho completo qua. Se mi capita di prendere un'altra stazione fissa, già me lo prendo, non c'ho problemi. Avanti Franco. Ecco, io riprendo e vi lascio, perché mi devo fare le luci, sono un po' stanchetto. E ci sentiamo, ciao. Ciao Claudio, ben ascoltato, salutami a Gianni e buon proseguo di serata. Ciao Riccardo, ben ascoltato e buon proseguo. E tieni di conto quella roba vintage, tienitela conto perché non la troverai mai più. Ok, ciao Tonino, buon proseguo, buon tutto, ci ascoltiamo le prossimine. Riprendi tu Tonino e fai girare. Ok, ciao Fra, buon connetti, buon 144, ci sentiamo domani, ok, avanti Riccardi. Ehi, ciao Franco, buon 144 quando lo fai e ci sentiamo domani. Riccardo, saluta tuo padre, ciao. E altrettanto. ciao, grazie, buon quartì, buon rinfresco nella piazza, ci sentiamo, salutami al tuo grichellone, a materica. Eia, ciao Claudio, buona serata e ci sentiamo alle prossime. Oh Tony, siamo sempre i soliti che facciamo le ore piccole, non c'è nessun altro, anche ieri la stessa storia. E allora, perché siamo i più belli? E i più forti. Quello senza ombra di dubbio, a mille per mille. Abba scende la Grecia. Dai che lo siamo, dai, in tutto per tutto. Questo ce lo possiamo dire a voce alta. Ricadi. Sono qui. Hai visto cosa ha detto Franco? Abbascia la Grecia. Già uscita Franco. Mila ricevuta. E io la stavo cercando, oggi sono andato a ritirare il piccino, ce l'ho ricevuta. E domani me la porti. Adesso ho trovato vicino al baracchino, cara. Te le mangi. Porca miseria, cara. Ma sempre così succede, Tony, che quando la cerchi non la trovi mai. E poi quando stai facendo altro non ci stai pensando, te la trovi in mezzo alle scatole. Ehi, ma lo sai quando l'ho cercata stasera? Da una parte all'altra, non è portafoglio, niente, è giubbotto, nulla, con la stessa maniche. Oggi mi sono fatto il mattino trabaccando, mattina e sera, proprio guarda, ero crepato, poi col caldo che c'era. Ma è proprio vero, le persone che stanno più bene, che non rimangono, sono ricche, diciamo, non ti offrono neanche un bicchiere di acqua fresca. E tu lavorando sotto il sole, cosa da pazzi. Ma già lo so, Tony, è così. Cioè, io mi ricordo tempo fa, avevo preso quando è uscito il condizionatore, il Mitsubishi Electric, che costava 2 milioni e 400 mila lire, con la lira. E sono venuti questi due ragazzi della Cagliari a piazzarmelo. Ma la prima cosa che ho fatto, cosa gradita, è subito a bere. Siccome il lavoro era un po' lungo, le ho fatte prendere a casa mia. E poi alla fine, tutto fatto, non gli mancava mai niente. Gli ho regalato 50.000 lire per uno, non solo le ho pagate dalla ditta qui per installazione. E metto queste testuali parole, io noto che le persone operai normali, come il popolino, sono più generosi delle persone ricche che non tirano neanche un bicchiere di acqua. E questo è vero perché lo sto constatando anche tutt'oggi. È una vergogna però, dai, che a 33-34 gradi poi... Di solito si diventa ricchi sfruttando gli altri. Per carità. No, voi già non siete così di caldi. Cerchiamo di essere tutti una famiglia e tranquilli, non sfruttare tutte queste cose. No. E vabbè, meno male che domani finisco, dai. Domani è il quarto giorno. Non finivano più, guarda. Tu pensi a tutta una villa grande, sotto e sopra, che hanno tutte le feriate, c'è il piano terra, poi c'è la discesa che va sulla parte bassa, tutte le feriate, porte, finestre, tutte levigate a mano a una, e poi dato l'antirruggine e verniciate. Per carità, me ne sto sognando. Ci credo, non è un lavoraccio. E poi col caldo che c'è. Infatti per mia fortuna, diciamo, il caldo vabbè, non ne puoi fare niente. Però metti il lavoro a parte bassa che c'è l'ombra. Poi dopo vado a casa, pranzo perché è vicino a casa mia. E poi ritorno lì che c'è l'ombra sopra e quindi giù c'è il sole. Allora lascio stare il cambio, ci faccio il cambio. Però grazie a Dio, dai, domani è finito tutto. È una persona che conosco, persone tranquille, stanno bene, eccetera, una bella villa, tutto, non c'è dire che. Però per il fatto che io quello senza acqua avevo gente l'acqua in macchina e ci potevo fare il tè, e tu era budelli. E oggi l'ho visto scaldato parecchio. 34 gradi in macchina mi ha segnato. Tu pensa al sole quanto sarà stato buttato. Me lo immagino, pensa tu che stavi lavorando, io non ho fatto niente e mi sono buttato in piscina al caldo. Caldo, pazienza. Domani è messo caldo lo stesso, Adesso inizia anche un pochino il periodo di propagazione. Spero di quelle non troppo forti quando scalda troppo. Chi è che mi chiama? Sì, sta ancora gracchiando. Ti che porti rumore appresso. Ma che rumore è? Mi sento? A parte la vede, ma la voce non è buona. Beh, la voce no, perché sono già non ho fatto con il livello di cinque. Stai innescando? Sto molto innescando. Ma la voce è di... Tipo il rumore appresso. Adesso mi hai fatto sordo quel innesco. Tu Riccardi? No, no, anche da questa parte sta innescando tutto, uguale come da te. Ok, controllati il microfono, qualche filo forse lo fa portato. Ok, ciao, ciao Fra. Ciao Fra. Fai la nana che hai detto documenti poco fa che è tardi. C'è per Ricky il porco fraga. Adesso è peggio il rumore che ti porta presso Fra. Radio quasi zero, guarda, tutto. Quasi zero, così. Riccardo, dico tu che mi scappa da riso. Anche a me sta scappando da ridere. Sì, che sta facendo lo stesso rumore che ti ha detto Tonino. Un rumore brutto, un innesco e anche altro. Dai, c'è qualche filo, messo male Fra, quel microfono, controllalo. Oh, Fra, se non riesci a controllarlo, fai una cosa, vai al piano su di casa tua, apri la finestra e butti dal primo piano l'MB+5 e vedi che si ripara. Ora quando lo fai dimmelo che io vengo sotto, lo prendo al volo. Troppo innesco Fra. Ma prima non stavi modulato quel microfono. Va bene, dai. Gira gira, Riccardo, sono arrivato a 65 anni, a 66 anni, senza capire quello. No, dai, scherzo, adesso l'ultimo passaggio sei anche andato meglio. Sono quasi meglio, da un grido, sono andato meglio. Abbiamo continuato come di meglio. Ha giambato il microfono, ha parlato pure. Aspetta, mi sa che mi stanno chiamando e annuncio i miei orecchi, scusate. Ciao Tonino e ciao Franco, a tutte le orecchie di porco. Ci sentiamo domani che sbaracco. Ok, Riccardi, dai. Ci sentiamo, ciao, buonanotte, stammi bene, a domani. Ciao Franco, che io chiudo tutto, che domani non sarà molto presto, domani ci trambacco e ci finisco, meno male. Ah. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte Tonino, e come è stato Franco, buongiorno Franco. Tutti e due anche alle orecchie di porco che devono fare la nanna, e così non hanno più niente da ascoltare. Ciao a tutti, a domani. Ciao Riccardino, buonanotte. Ciao Riccardo, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.